Allora, buonasera a tutti, Radio Default. Questa è un po' un'anteprima straordinaria che stasera facciamo per Radio Cufia. Purtroppo stamattina ci sono stati dei fatti poco piacevoli, ovvero è scattata una vasta operazione da parte delle forze dell'ordine, Digos e Carabinieri, e stamattina sono state perquisite diverse abitazioni di compagni. Addirittura si parla di 17 misure cautelari, 2 arresti, 10 compagni con obbligo di firma. E tutto questo perché praticamente la procura accusa questi compagni che nella giornata del 31 ottobre, dove ci fu una grossa mobilitazione per il centro di Roma per quanto riguarda il diritto all'abitare, e in quella giornata c'era stato un comportamento da parte delle forze dell'ordine particolarmente ostile, che aveva vietato il passaggio del corteo, come era stato invece precedentemente pattuito, e così sono scattate una serie di cariche. E stamattina, ecco, definitivamente il cerchio che si chiude con questa nuova vasta operazione, che sicuramente ci ricorda quello che è successo pure qualche tempo fa per quanto riguarda pure i compagni della Val di Susa, che ugualmente erano stati prelevati dalle proprie abitazioni proprio per aver manifestato durante le varie mobilitazioni in valle. E stessa cosa quindi anche per gli attivisti del movimento di lotta per la casa. Tra l'altro, stamattina non solo Roma è stata a risvegliarsi, diciamo così, in modo brusco, purtroppo anche Napoli ha visto un ulteriore blitz da parte delle forze dell'ordine. Praticamente i precari bros sono stati di nuovo oggetto praticamente di nuove misure cautelari, e a quanto sembra si parla anche lì di arresti domiciliari per almeno 10 disoccupati del movimento Precari Bros. Invece, per altri 25 addirittura è stato disposto l'obbligo di non allontanarsi dal comune di dimora abituale. Quindi, come vediamo, purtroppo nel momento in cui la crisi morde di più e magari c'è chi cerca di alzare la testa, proprio loro vengono fatti oggetto di una repressione particolarmente fuori misura, e che sicuramente ci richiama anche alla questione dell'amnistia sociale, che probabilmente diventa sempre più urgente come campagna. Perché tra la Val di Susa, quello che succede giù a Napoli per i lavoratori precari, quello che succede a Roma per i movimenti di lotta per la casa, sicuramente non è un bel clima. Probabilmente nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, si parlerà dell'appuntamento che ci sarà a marzo, un corteo nazionale contro la repressione. Però oggi, magari su questo passo la parola a Emanuele, che ci dirà meglio. Oggi comunque è stata una giornata nel pomeriggio che ha visto una serie di mobilitazioni, tra l'altro anche perché poi sabato ci sarà un nuovo appuntamento di mobilitazione. Sì, insomma, oggi mobilitazione sia un po' in tutta Italia in solidarietà con i compagni di Roma e di Napoli, che, come ha detto Emiliano, appunto si parla di 17 a Roma e 35 soltanto a Napoli. E corteo che ha visto corteo a Roma, che è partito in quel di Porta Pia, dove era finito il corteo dello scorso 19 ottobre, e che ha visto e da dove era partito anche lo scorso 31 ottobre. Punto abbastanza focale per i movimenti di lotta per la casa, perché si hanno a poca distanza dal Ministero delle Infrastrutture, del Buon Lupi, e poco più vicino, da là si imbocca via del Tritone, dove all'epoca si teneva la conferenza Stato-Regioni, il cui tentativo di assalto, tra virgolette, come dicono i giornali, ha poi portato agli arresti di oggi. Già subito oggi la polizia è stata ben schierata, cercando di, appunto, di bloccare l'accesso a Via del Tritone con un ingente dispiegamento di forze. Si parla di circa 2000 manifestanti che hanno portato la solidarietà agli arrestati e che appunto sono... hanno attraversato il centro di Roma senza particolari incidenti, a parte che come al solito Repubblica tende calcare la mano dicendo che un manifestante e un passante sono rimasti feriti per lo scoppio di una fantomatica bomba carta che probabilmente sarà soltanto un petardone e il corteo è passato anche davanti alla sede del Messaggero, il giornale di Gaetano Caltagirone, ben noto palazzinaro romano, e al passaggio del corteo la polizia, che stava difendendo appunto l'organo di propaganda di uno dei maggiori cementificatori di questa città, la polizia si è chiusa all'interno della redazione. E perché è così importante il Messaggero? Non solo il Messaggero, potremmo dire anche il Tempo, hanno la loro colpa nella criminalizzazione dei movimenti dei senza casa, degli occupanti delle case, perché già chi si può ricordare, chi ha la memoria un po' più lunga, già nel 2009, nel settembre 2009, quando venne sgomberata l'occupazione dell'8 marzo a Magliana, la scuola 8 marzo a Magliana, Il Menzognero e il Tempo hanno avviato una campagna mediatica abbastanza pesante, in cui si pigliavano presunti ex occupanti del coordinamento cittadino di lotta per la casa, che raccontavano una sorta di inferno in queste occupazioni, tra estorsioni, racket e via dicendo. Ovviamente tutte illazioni che sono state, che ovviamente vengono da uno dei maggiori cementificatori e anche uno di quei soggetti che vorrebbe comprarsi a prezzo stracciato quei terreni dove sorgono le case occupate, per poi magari ricementificarle e farci dei begli appartamenti da 5.000 euro a metro quadro. Ma non solo, anche durante lo scorso tsunami tour della scorsa primavera, quando c'è stata quell'ondata di occupazioni che ha visto la nascita del Degage, di Comunia e tante altre appunto occupazioni di carattere abitativo, anche in quel caso è partita molto forte la campagna di diffamazione mediatica, in cui si parlava di occupanti che rubavano la corrente, di occupanti che di occupazioni che facevano da epicentro per l'eversione rosso-nera romana, con appunto presunti terroristi anarchici ed ex brigatisti che non si davano appuntamento in strutture abitate soltanto da chi purtroppo la crisi ha indotto a dover occupare casa, perché della casa qua non se ne occupa nessuno. E quindi appunto una nuova falsificazione mediatica che magari nei prossimi giorni vedremo di leggere, anche di smontare quello che dicono questi fogliacci di propaganda. Per adesso rimane appunto che la città di Roma, ma non solo, tutta Italia, Milano, Napoli, hanno risposto a questi arresti con una grande ondata di solidarietà, e quindi vi manterremo aggiornati su ciò che succederà.